Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Sì, è stata fatta giustizia per Sara. Come dico io, il primo punto è andato a segno. E ovviamente sono finalmente, dopo questi 11 mesi in cui proprio non riuscivo nemmeno a respirare, finalmente adesso una boccata d'ossigeno l'ho avuta. Questa, cara ascoltatrice, cari ascoltatori, è la toccante considerazione che fa la mamma di Sara Di Pietrantonio. Vi ricordate la studentessa 22enne l'anno scorso, a maggio di questo periodo, a Roma, strangolata e data alle fiamme dal suo ex fidanzato perché lei lo aveva lasciato? Bene, oggi è arrivata la sentenza per Vincenzo Paduano. Ergastolo, diciamo, una sentenza che perlomeno fa un po' di giustizia, anche se naturalmente la mamma poi ha detto non solo non si è mai pentito, ma certamente poi non potrò riavere mia figlia. Questo purtroppo lo sappiamo tutti, però almeno è un segnale importante di una sentenza forte che sottolinea che non si può rimanere impuniti o si possono avere pene leggere per un reato così efferato e così terribile. Parleremo di questo, avremo l'avvocata di parte civile qui effetto nota in questa puntata e parleremo poi di molte altre cose. Per esempio, ieri abbiamo discusso con due esponenti politici su fronti opposti, uno del PD e uno della Lega, del disegno di legge sulla legittima difesa, che è passato alla Camera ma già ieri aveva creato molte polemiche e oggi, diciamo, scontenta sia a destra che a sinistra, nel senso proprio letterale del termine, ma anche al centro e nella maggioranza si capisce che il testo, diciamo, un po' di confusione la fa e ce l'ha. E poi ce ne occuperemo nel bilancio della politica della settimana. E poi le presidenziali francesi. Sapete che domenica si vota il ballottaggio, bisognerà decidere la presidente della Francia e quindi ci collegheremo direttamente con Parigi per interagire con Effetto Notte. Lo sapete, c'è la pagina Facebook di Effetto Notte per voi giorno e notte, oppure il numero per WhatsApp ed SMS che è 349 238 6666. Un sacco di temi, non perdete come sempre la puntata per intero di Effetto Notte sino alle 22. Intanto, riassunto della giornata. Le presidenziali francesi, ultime ore di campagna elettorale per i candidati all'Eliseo, Le Pen e Macron, che domenica si sfideranno al ballottaggio. Pomezia, incendio in un deposito di rifiuti, una nube nera minaccia i centri abitati, l'invito a non aprire le finestre ma nessun intossicato. Effetto Notte, tra poco il sindaco della cittadina del Lazio. Sara strangolata e bruciata, condanna all'ergastolo per l'ex fidanzato Vincenzo Paduano. La mamma della vittima dice sentenza giusta, non si è mai pentito. A Effetto Notte l'avvocata, tra poco, di parte civile. Legittima difesa, dall'Associazione Nazionale Magistrati al PD, tanti no, la legge è passata ieri alla Camera e Grasso dice meno male che c'è il Senato. Corriere del Nord, le autorità accusano la CIA di voler uccidere Kim Jong-un e avvertono siamo pronti a reagire. L'anziano spinto giù dagli scogli, 17enne fermato con un altro minorenne, ammette sono stato io. Calcio, ultra della Lazio ammettono sono loro i manichini romanisti impiccati al Colosseo, solo uno sfottò, dicono. Per il ciclismo al Giro d'Italia, prima maglia rosa e l'austriaco Postberger. Partiamo quindi dalle presidenziali francesi, oggi ultimo giorno di campagna elettorale in Francia, prima del silenzio che inizierà questa sera alle 22, quindi alla fine di Effetto Notte, e resterà in vigore fino all'apertura delle urne domenica alle 8. Il favorito di queste presidenziali, lo si dice da tempo, è il centrista Emmanuel Macron, vede il suo vantaggio confermato dagli ultimi sondaggi che lo danno al 61,5% davanti al 38,5% della sua rivale Marine Le Pen, che oggi, come è successo ieri in Bretagna, è stata bersaglio di una contestazione con lancio di uova fuori dalla cattedrale di Reims. E intanto l'ISIS lancia un appello ai lupi solitari, anche se bisognerebbe trovare un termine diverso, meno epico, per questi dementi. Uccidete i candidati, dice l'ISIS al ballottaggio per le presidenziali in Francia, e il personale nei seggi. L'ISIS lancia questo appello nella versione francese del magazine Rumia, pubblicato online alla vigilia del voto di domenica, lo riferisce il site, che è il sito di monitoraggio dell'estremismo islamico sul web. Ne parleremo, come dicevo, tra poco, e vi ricordo che Radio 24 poi seguirà in diretta i risultati del ballottaggio con uno speciale in onda dalle 19 alle 21 domenica, condotto da Gigi Donelli. E passiamo all'incendio a Pomezia. Alta nube di fumo nero e allarme a Pomezia, sud di Roma. Il rogo è divampato oggi nell'azienda EcoX, che tratta materiale di recupero. Il sindaco della città pontina ha invitato i cittadini a chiudere le finestre, a lasciare le case se possibile. La procura di Velletri ha aperto un'inchiesta e procede per incendio colposo. La regione Lazio fa sapere che non si sono registrati ad ora accessi nel pronto soccorso degli ospedali del Lazio correlati a intossicazione. Il sindaco oggi ha detto che è stata un po' un'esagerazione mediatica ed è in collegamento, lo ringrazio per la disponibilità, Fabio Fucci, buonasera. Buonasera a voi, buonasera agli ascoltatori. Lei diceva nelle ultime ore che la situazione è sotto controllo, com'è a questo punto? Sì, la situazione diciamo che si è in gran parte ridimensionata rispetto a questa mattina, in cui le fiamme erano alte e il fumo nero era denso e diciamo si è diffuso in gran parte nell'area. In questo momento invece le fiamme sono sotto controllo, i vigili del fuoco hanno lavorato tutto il giorno, li ringrazio per il loro lavoro incessante e hanno quindi ridimensionato in maniera consistente quella che è l'entità dell'incendio. Anche il fumo che si alza comunque adesso dal luogo del rogo è di entità notevolmente diminuita rispetto a questa mattina e quindi insomma c'è stato veramente un rimbalzo formidabile, ecco, e un'amplificazione di questa attività che seppur non va presa sotto gamba, anzi merita tutta l'attenzione necessaria, al punto che io stesso questa mattina ho provveduto ad emanare un'ordinanza per chiudere le scuole nel raggio di 2 chilometri e diffondere una serie di regole di buonsenso che sono state giustamente dalle ricordate. Quindi sindaco, mi scusi, sì, adesso però vedo che per esempio sul sito di Repubblica che c'è il sospetto amianto. Intanto la sindaca Raggi ha chiesto di chiudere le finestre in 21 comuni dei castelli e si parla da parte dell'ASL di accertamenti, si chiedono accertamenti su fibre disperse in aria dell'amianto, che sappiamo quanto possa essere pericoloso. Sì, diciamo che questi accertamenti sono stati sollecitati da noi perché già questa mattina abbiamo chiesto l'intervento dell'ARPA per l'installazione di alcune centraline per il monitoraggio della qualità dell'aria. I dati ovviamente arriveranno nelle prossime ore, nel senso che queste centraline hanno bisogno di alcune ore di funzionamento per la sedimentazione delle sostanze disperse nell'aria che poi si depositano su queste centraline e si daranno le prime risultanze. Quindi bisogna aspettare ancora qualche ora, insomma, per sapere che cosa c'è in questa. Ancora qualche ora e in questo momento diciamo ci avvaliamo delle regole di buonsenso e di precauzione, per cui ecco queste regole di tenere le finestre chiuse, di evitare gli spostamenti inutili, di lavare bene frutta e ortaggi e quindi in questo momento ci dedichiamo alla precauzione. Grazie sindaco Fabio Fucci, buon lavoro allora. Intanto. Grazie a lei, buonasera. Grazie, buonasera. E adesso un femminicidio che ha colpito molto l'opinione pubblica, anche se tutti naturalmente dovrebbero colpire l'opinione pubblica, è quello però, vi ricordate, di Sara Di Pietrantonio, studentessa di 22 anni, strangolata e poi data alle fiamme a Roma lo scorso maggio dall'ex fidanzato Vincenzo Paduano. Oggi è arrivata la sentenza nel processo con rito abbreviato che lo condanna Paduano all'ergastolo. È stato ritenuto responsabile di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione da futili motivi, stalking, distruzione di cadavere, danneggiamento e incendio dell'automobile a bordo della quale viaggiava la povera Sara. Come beneficio per il rito processuale scelto, cioè l'abbreviato, Paduano ha ottenuto l'esclusione dall'isolamento diurno. La mamma della vittima, l'avete sentita, ha detto una sentenza giusta, anche se non si è mai pentito e poi non avrò più mia figlia. E sentiremo nel corso di Effetto Notte tra poco l'avvocata di parte civile. Siamo alla politica italiana con la controversa approvazione alla Camera della legge sulla legittima difesa. Appena approvata alla Camera è già contestata, non piace la distinzione tra aggressione in casa di notte e di giorno nella legge sulla legittima difesa, un discrimine orario che fa venire dubbi anche a Matteo Renzi. Il segretario PD garantisce che sarà modificata in Senato, dello stesso parere il presidente di Palazzo Madama Piero Grasso, pronto ad intervenire. Lo stesso relatore Davide Ermini assicura che la parola notte verrà tolta affinché la percezione di quello che uscito non sia completamente stravolta. D'accordo anche Angelina Alfano. Noi siamo perché la difesa sia sempre legittima 24 ore su 24. Se il testo non è chiaro su questo aspetto, c'è sempre il Senato e si migliora. Interviene la NM. Per il presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, Eugenio Alba Monte, è un intervento che non serviva. Il legislatore non dovrebbe assecondare gli umori della società. All'attacco invece Matteo Salvini Salvini della Lega. Ma se vanno avanti con questa schifezza, noi raccogliamo le firme per fare un referendum, perché questa è legittima difesa per i delinquenti. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E adesso parliamo di economia. La crescita economica dà segnali positivi, ma secondo l'Istat in decelerazione. È un'economia italiana in terreno positivo, ma che non riesce a prendere un ritmo di crescita costante, quella che emerge dalla nota mensile dell'Istituto di Statistica. L'indicatore relativo al mese di aprile rimane infatti con segno più, spiega l'Istat, ma evidenzia una decelerazione, così come i segnali di dinamicità provenienti dal lato dell'offerta e dal commercio estero stentano a rafforzarsi. L'occupazione è in una fase di stabilizzazione, i prezzi vengono confermati in crescita. Di ripresa in corso per il nostro paese parla quindi Standard e Poor's, che conferma il rating della tripla B meno con prospettive stabili, con una crescita dello 0,9% quest'anno e in consolidamento a 1,2% nel prossimo triennio. L'Unione Europea risponde intanto alla richiesta di Italia, Francia, Spagna e Portogallo perché alcuni criteri di valutazione sui conti pubblici siano modificati in funzione della congiuntura economica. La Commissione, spiegano da Bruxelles, applica le regole esistenti ed accettate da tutti, anche quella secondo cui tutti i paesi vanno trattati allo stesso modo. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E parliamo anche del nuovo presidente per i giovani imprenditori di Confindustria, che è Alessio Rossi, guiderà gli under 40 di Viale dell'Astronomia per i prossimi 3 anni. Alessio Rossi, romano, si sente, 37 anni, imprenditore di prima generazione. Questa è una novità per il movimento. Si presenta così il nuovo presidente dei giovani imprenditori di Confindustria. Una laurea in giurisprudenza, Alessio Rossi guida una PMI Limaco attiva nel settore delle costruzioni generali, con 2 sedi operative, una nel Lazio e l'altra in Mozambico, 70 collaboratori e un volume d'affari di 10 milioni di euro. Il neopresidente, primo romano dopo Luigi Abete, è stato eletto dal Consiglio Nazionale con 147 voti su 160. Formazione continua degli imprenditori, innovazione, internazionalizzazione, alternanza scuola-lavoro, mercato dei capitali, Made in Italy 4.0 sono le sue linee programmatiche e una priorità per far ripartire il mercato del lavoro. Costo del lavoro e abbattimento della tassazione sulle imprese. Se non agiamo su queste due leve, sicuramente non avremo mai uno sviluppo duraturo e continuo e sicuramente non avremo mai quella competitività di cui il nostro paese e le aziende del nostro paese hanno tanto bisogno per competere con i mercati esteri. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E parlando di migranti, il presidente della Commissione Europea Juncker, sapete che in Italia c'è stato un grande dibattito, una grande polemica sulla possibile collusione tra ONG e trafficanti di esseri umani. Juncker ha già detto che l'Italia fin dal primo giorno fa tutto ciò che può fare sulla crisi migratoria. L'Italia ha salvato, dice, salva l'onore dell'Europa. E andiamo all'estero per il nuovo capitolo delle tensioni tra Stati Uniti e Corea del Nord, con l'accusa da parte di Pyongyang di attentare alla vita di Kim Jong-un. Per la seconda volta questa settimana, i media della Corea del Nord stupiscono e allarmano il mondo. Prima, con un davvero insolito attacco alla Cina, accusata di diventare prona ai desideri degli Stati Uniti, e oggi con la rivelazione clamorosa secondo cui la CIA e i servizi segreti sudcoreani avrebbero ordito un complotto per assassinare il leader nordcoreano Kim Jong-un attraverso sostanze biochimiche. L'attentato sarebbe dovuto scattare durante le parate militari di aprile. Le comunicazioni attribuite al Ministero della Sicurezza di Pyongyang sono prodighe di dettagli sul nordcoreano che sarebbe stato assoldato, un tale Kim, per il tentativo di assassinio, sui pagamenti effettuati in dollari e sull'utilizzo suggerito di sostanze in grado di avere effetti letali anche a distanza di 6 mesi o 1 anno. Intanto a Washington la Camera ha varato più severe sanzioni contro la Corea del Nord, mentre Seoul si deve attendere il risultato delle elezioni di martedì prossimo per l'insediamento di un nuovo governo con pieni poteri, che cerchi di avere un ruolo politico più spiccato in questa fase di aspre tensioni. Stefano Carrer, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Tokyo. E adesso invece la cronaca. È stato uno stupido scherzo, non una rapina. Tornando in Italia con la cronaca, così oggi 2 minorenni di Monopoli in Puglia in stato di fermo per aver spinto 2 anziani dagli scogli e aver causato la morte di uno dei 2, un uomo di 77 anni. Uno stupido scherzo e non una rapina, quanto ha raccontato al GIP nell'istituto minorile Fornelli di Bari il 17enne in stato di fermo assieme all'amico di 15 anni per aver spinto due anziani da una scogliera nord di Monopoli, causando la morte del 77enne Giuseppe Di Bello. Ai due ragazzi il PM presso il tribunale per i minorenni di Bari, Carla Spagnuolo, aveva contestato i reati di omicidio volontario aggravato dallo scopo di rapina. Oggi il difensore del 17enne chiede l'attenuazione della misura cautelare con concessione degli arresti domiciliari. Per quanto riguarda il 15enne, avrebbe confermato quanto già emerso dalle intercettazioni ambientali, cioè di essere stato presente ma di non aver fatto materialmente nulla. Una nuova indagine disposta dal PM ha inoltre accertato che nella tasca della giacca lasciata sulla spiaggia da uno dei due anziani, il sopravvissuto Gesumino Aversa, c'erano 650 euro della pensione appena ritirata che non sono stati toccati. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Per chiudere, lo sport con la follia degli ultra laziali dopo il derby di Roma, che avevano appeso tre manichini di giocatori giallorossi appesi da un ponte con vista sul Colosseo con tanto di striscione. La foto subito ha fatto il giro del mondo. Poi loro, oggi gli ultra laziali, hanno detto: siamo stati noi, ma insomma è semplicemente un sano sfottò da derby. Beh, insomma, la vedono così evidentemente. Poi la procura di Roma però è pronta a indagare per minacce aggravate. Se questo è un sano sfottò, diciamo, è tutto molto relativo. E poi invece, per quanto riguarda il Giro d'Italia, sapete che è partito oggi 100ª edizione, il ciclista austriaco Lukas Postelberg è la prima maglia rosa del Giro, ha vinto la prima tappa Alghero Olbia. E quindi a questo punto direi che possiamo brevemente fermarci, così aggiorniamo invece chi si sta muovendo, chi sta viaggiando, e poi cominciamo allora con i vari ospiti a approfondire alcuni temi. In particolare rientreremo sulla sentenza d'ergastolo per l'uomo che ha ucciso lo scorso maggio dell'anno scorso la giovane studentessa Sara Di Pietrantonio, e poi molti altri temi. 349-238-6666 per i vostri messaggi WhatsApp, oppure per interagire c'è anche la pagina di Effetto Notte. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. In 60 minuti, tutte le sere, dal lunedì al venerdì, qui Effetto Notte, potete essere costantemente aggiornati su tutto quello che è successo durante il giorno, sui fatti principali naturalmente, se no dobbiamo stare insieme dei mesi. E adesso, dopo avervi raccontato in sintesi la giornata, cominciamo ad affrontare alcuni argomenti. Vi ricordo tra poco quali sono i titoli principali. Intanto vedo diversi vostri messaggi sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte che al 349-238-6666. Gli argomenti di questa sera, vi dicevo, in primo piano sarà senz'altro questa sentenza di ergastolo per un femminicidio di cui si è molto parlato già l'anno scorso, e parleremo anche delle presidenziali francesi. Poi ci sarà il meteo per capire, pare che torni purtroppo il brutto tempo. Comunque vi ricordo, se avete acceso puntualmente alle 21, quali sono le notizie più importanti. A fuoco un deposito di plastica a Pomezia, panico per la nube tossica, è a sud di Roma, via da case e scuole, finestre chiuse. Abbiamo sentito il sindaco di Pomezia poco fa che dice tutto sotto controllo, anche se c'è il rischio amianto sulle coperture dei capannoni, e quindi l'ASL sta cercando di valutare, avverrà questa, ci saranno i risultati nelle prossime ore. Poi presidenziali francesi con tra Macron e Marine Le Pen che si sfideranno domenica al ballottaggio, ultime ore di campagna elettorale. Macron cresce nei sondaggi, oggi la Le Pen assediata dalle proteste. E poi uccise e bruciò l'ex fidanzata a Roma, condannato all'ergastolo Vincenzo Paduano. L'omicidio avvenne a Roma, la mamma dice giusto così, anche se non si è mai pentito. E poi per quanto riguarda il disegno di legge sulla legittima difesa approvato ieri dalla Camera che passerà al Senato, ci sono vari no dall'Associazione Nazionale Magistrati al PD, sono tutti piuttosto scontenti, e Grasso, presidente del Senato, dice meno male che c'è il Senato, nel senso che deve passare ancora al Senato. E poi la Corea del Nord che accusa e dice la CIA vuole uccidere Kim Jong-un, il dittatore, minacciano quindi attacchi all'intelligence americana, ai 007 sudcoreani. Per quanto riguarda i migranti, il presidente della Commissione europea Juncker che afferma l'Italia ha salvato l'onore di tutta l'Europa, ha fatto tutto quello che poteva. E poi follia degli ultralaziali che hanno appeso vicino al Colosseo questi manichini romanisti che simboleggiavano dei calciatori della Roma, e al Giro d'Italia prima maglia rosa è l'austriaco Postelberger. Sì, è stata fatta giustizia per Sara, come dico io il primo punto è andato a segno e ovviamente sono finalmente dopo questi 11 mesi in cui proprio non riuscivo nemmeno a respirare, finalmente adesso una boccata d'ossigeno l'ho avuta. Così ha detto la mamma Concetta, mamma di Sara Di Pietro Antonio, che il 29 maggio dello scorso anno fu strangolata e data alle fiamme dall'ex fidanzato Vincenzo Paduano, che si voleva vendicare perché lei lo aveva lasciato. La sentenza è stata emessa a conclusione del processo con rito abbreviato e Paduano è stato ritenuto responsabile di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e dai futili motivi, stalking, distruzione di cadavere, danneggiamento e incendio dell'automobile. Ne voglio parlare con l'avvocata Teresa Manente, che è legale di parte civile nel processo e responsabile dell'ufficio legale dell'associazione Differenza Donna. Buonasera, dottoressa Manente. Buonasera. Allora, non può tornare Sara, come ha detto sua madre, però almeno si sente che è stata fatta giustizia, nel senso che in moltissimi casi, no, sappiamo che magari ci sono delle sentenze un po', diciamo, leggere rispetto a quello che ci si aspetterebbe per delitti così gravi, così efferati. In questo caso quindi è stato riconosciuto una serie di aggravanti, no, che elencavo poco fa. Sì, certo. È una sentenza che ha riconosciuto anche la nostra richiesta. Differenza Donna si è costituita parte civile in questo processo e ha chiesto un risarcimento simbolico soltanto di un euro, perché riteneva e ha richiesto una sentenza giusta che riconoscesse la gravità di questi reati. E questa è una sentenza giusta perché il giudice ha valutato i fatti che nella loro gravità senza emettere, applicare circostanze attenuanti. Che spesso vengono utilizzate. E questo ha permesso anche in un abbreviato di ottenere una sentenza quale l'ergastolo, che io ritengo sia una sentenza che segna una condanna sociale, indica una condanna sociale, ed è una sentenza che contribuisce a una modifica culturale, che segna una modifica culturale, che contribuisce proprio a modificare questa cultura del possesso, del controllo che porta che avalla la violenza maschile, che porta all'uccisione di donne come Sara, come la giovane Sara. Oramai è intollerabile, devo dire inaccettabile, non se ne può più, cioè è gravissima contare il numero di donne uccise dai partner perché scelgono, perché fanno scelte di libertà, e quindi è una sentenza, è solo un cambiamento culturale, questa sentenza che dà un significato, no, di condanna sociale a delitti così efferati che violano diritti veramente gravissimi come quelli che ha subito Sara. Siamo soddisfatte come associazione Differenza Donna, perché sicuramente segna un cambiamento culturale. Sono d'accordo con lei, dottoressa Manente, perché spesso si dice sì, ma non serve aggravare le pene, più la prevenzione. Allora, la prevenzione ci deve essere senza dubbio, anche il cambiamento culturale, abbiamo detto tante volte, a partire dalle scuole, no? Però è anche vero, certo, che va dato il segnale che non è ammissibile che si continui in questo senso, in questa direzione, no? Perché tutti pensano, vabbè, alla fine le attenuanti, la buona condotta e le pene sono sempre il eccessivamente fatto che lui ridotte. Fosse incensurato, un bravo ragazzo, no. Assolutamente. Le leggi esistono nel nostro ordinamento. E quindi vanno applicate. Certo, vanno applicate. Bene, la ringrazio, grazie molte all'avvocata Teresa Manente. Prego, grazie, prego. Buonasera. Arrivederci, buonasera. Diciamo, meno male che c'è il Senato, se dobbiamo intervenire su questo tema. Questa è la considerazione del Presidente del Senato Grasso a proposito della legittima difesa, dicendo vabbè, alla Camera è andata così, però meno male che c'è il Senato, lanciando probabilmente anche così una piccola frecciata a Renzi, che sapete che il referendum voleva più che abolire, cambiare il Senato, ridurlo, trasformarlo. Invece Grasso probabilmente ha voluto anche insinuare un po', diciamo, questo, oltre a dire che questo disegno di legge sulla legittima difesa al Senato quindi potrebbe essere cambiato. Questo è uno dei temi grossi, forse il principale, diciamo, nel bilancio della politica di questa settimana, della politica italiana, no? Perché naturalmente c'è il post primarie del PD, del Partito Democratico, di cui però si è parlato abbastanza. Adesso bisogna capire quali saranno le alleanze con Renzi, che sarà decretato ufficialmente nuovo segretario, risegretario del PD domenica. E poi sappiamo che la legge elettorale anche è fondamentale. Qualcuno dice vabbè, ma ci sono altri temi importanti, no? Perché tutti dicono, glissano a destra, a sinistra, al centro, tutti dicono finché non c'è la legge elettorale, non dicono quali sono i programmi, non dicono con chi si alleeranno, quindi aspettiamo con ansia questa legge elettorale. E poi tutto l'intenso dibattito sul rapporto tra ONG e trafficanti di esseri umani, che è stato messo sotto accusa dal procuratore di Catania. Sapete un po' il dibattito che c'è stato, forte, anche molto politico. Ne parliamo con Barbara Fiammeri del Sole 24 Ore. Ciao cara Barbara. Buonasera. Allora, direi di, per quanto riguarda il post primario PD, di starci molto poco perché andrei proprio sulla legittima difesa, vorrei giusto così diciamo accompagnare questa nostra breve discussione su questo tema con quello che ha detto Massimo D'Alema qualche giorno fa a Di Martedì. Se si fa da costituente, Renzi pesa parecchio, tanto deve accettare di venire a sedersi con voi, ha detto di lei, dice che è un traditore. Io non voglio scendere su questo terreno, peccato, perché Renzi ha abbandonato tutti i valori della sinistra, meno uno, lo stalinismo. Accusare chi se ne va. Io sono in pace con la mia coscienza, soprattutto perché non ho tradito i miei ideali. E invece, secondo D'Alema, Renzi li avrebbe traditi e non ha abbandonato un unico valore, tutti i valori tranne lo stalinismo. Vuoi fare una battuta, Barbara, su post primaria, ma proprio breve, perché così poi riusciamo ad andare sulla legittima difesa? No, che bello, perché nella sinistra da quando nasce il Partito Socialista, poi il Partito Comunista, cioè le scissioni, le divisioni a sinistra e le accuse l'un con l'altro armati sport, diciamo, molto diffuso. Sì, devo dire molto più a sinistra che nella destra, insomma, cioè a sinistra veramente si assiste, ma anche in Francia abbiamo visto, no? Cioè, qualcuno dice questa è la democrazia, perché noi siamo democratici e quindi c'è libertà di opinione, di lasciare, ma di entrare. Io invece penso molto che ci sia intolleranza da parte di tutti, cioè l'intolleranza di chi è in minoranza sicuramente, cioè c'è stata un'intolleranza da parte di chi non accettava che il partito fosse guidato, insomma, da un corpo ritenuto estraneo, cioè non... cioè io faccio sempre presente che ai tempi di Tony Blair, che insomma anche lui non è che fosse proprio di sinistra sinistra, per dirla con un linguaggio consueto, erano rimasti dentro anche i trotskisti, cioè nessuno gli è venuto in mente di fare un altro partito perché Tony Blair portava la sinistra verso le liberalizzazioni e verso le privatizzazioni. C'è un concetto un po' diverso di democrazia. Allo stesso tempo, cioè, non possiamo non vedere l'arroganza di Renzi nel io contro tutti. E vedremo, quindi, insomma, come proseguirà come risegretario e come ricandidato premier. Sì. Invece, Barbara, quindi avremo modo di ritornarci sul dibattito relativo alla legittima difesa. Allora, abbiamo detto ieri, ne ho parlato, c'erano in collegamento due esponenti dei partiti. Per il PD c'era il relatore proprio della legge, che è David Ermini, e poi invece sul fronte opposto della Lega Molteni, l'onorevole Molteni. Allora, insomma, diciamo che ieri appunto è passata alla Camera con 225 sì e con il voto contrario di tutte le opposizioni, e ha scontentato tutte le opposizioni, da destra a sinistra, proteste in particolare di Salvini con la Lega, ma anche Fratelli d'Italia. Però anche a sinistra non c'è alcun consenso, perché a destra dicono che è una roba troppo edulcorata, una presa in giro, dal fronte opposto dicono che invece questo alimenta il far west. Allora sentiamo brevemente proprio dei brevi passaggi appunto degli esponenti politici che c'erano ieri in collegamento qui a Effetto Notte, quindi cominciamo da Davide Ermini del PD. Sento che viene detto che la difesa legittima scatta solo di notte, cosa che è falso, perché nella legge che è stata approvata oggi si parla certo del tempo notturno, ma successivamente c'è un ovvero, che vuol dire in tecnica legislativa oppure, quando l'aggressione avviene sempre, quindi con violenza sulle persone, sulle cose, con minaccia o con inganno. Quindi questa storia della notte è una bufala che qualcuno si è inventato e tutti gli altri gli sono andati dietro. E adesso invece Molteni della Lega. Daremo maggiormente lavoro al magistrato, e questo che cosa comporterà? Comporterà il fatto che il cittadino che era in casa sua, con la propria famiglia, con la propria bambina, nel proprio luogo abituale di serenità, di tranquillità, nel momento in cui viene aggredito e si difende, dovrà comunque sempre dimostrare davanti a un magistrato il motivo per cui ha esercitato un legittimo diritto. Guardate che difendersi all'interno della propria abitazione, e la nostra proposta andava esattamente in questa direzione, deve sempre essere un diritto, mai un reato. Il cittadino continuerà, che si difende, continuerà ad essere messo sotto processo, continuerà ad essere indagato, continuerà ad esserci l'accesso colposo di legittima difesa, se si difenderà potrà essere chiamato addirittura a risarcire il danno. Allora Barbara, diciamo appunto che questa legge è un prodotto dell'accordo tra PD e Alternativa Popolare, quindi della maggioranza, e ha scontentato appunto a destra e a sinistra. Qualcuno del PD ha detto: se ha scontentato sia a destra che a sinistra, allora vuol dire che abbiamo trovato una legge equilibrata. Invece per qualcuno evidentemente c'è qualcosa che non va in questa legge. Sicuramente da un punto di vista linguistico qualcosa è successo. Intanto sembra che anche Renzi al Senato la voglia correggere, e per esempio la parola notte ha creato molta confusione, e anche ovvero, che in realtà può avere vari significati nella lingua italiana, però in termini giuridici, come ricordava Ermini, significa oppure, invece che cioè, come in molti casi. Sì, no? Quindi, al solito, ecco. Allora, in Italia le leggi sono scritte con un linguaggio che insomma aulico, diciamo, per fare un complimento, insomma, ecco, io direi più da Zecca Garbugli, ecco, un po' contorto, sì, contorto. In questo caso Ermini ha ragione, perché se si legge la norma si dice di notte, ovvero prevede ad esempio la violenza o l'inganno, e quindi sono le fattispecie in cui viene ritenuta legittima la legittima difesa, scusate il gioco di parole. Però non c'è dubbio che poteva la norma essere più chiara, e che poi questa norma, perché anche l'Associazione Nazionale Magistrati l'ha criticata, sì, perché ritiene che in realtà non introduca delle fattispecie nuove, ma come dire, rischi di arrecare maggiore confusione alla legge già esistente. Quindi che ci sia la necessità di un chiarimento nel passaggio al Senato, certamente. Poi c'è un risvolto politico, ovviamente. Cioè Renzi è da tempo che puntava a una legge che rafforzasse l'istituto della legittima difesa. Dall'altra parte sappiamo che il fronte a sinistra di Renzi, cioè Orlando, non è d'accordo nel senso di una linea un po' dura che scimmiotti i leghisti, e infatti tra l'altro c'è anche il fatto che i bersaniani, cioè articolo 1, non hanno votato e sono maggioranza, quindi al Senato il testo così com'è tanto non ha i voti. Infatti non ha i voti, rischia di non passare. Non chiarimenti, i voti non ci sono, e quindi vanno cercati. Se il il partito che viene guardato con maggiore attenzione è Forza Italia, perché Forza Italia fino a un certo punto era d'accordo, poi... era d'accordo su questo testo, poi si è sfilata, quindi probabilmente la maggioranza tenterà di raggiungere un nuovo accordo. Lo speriamo, anche perché tanto che si aspetta questa legge e mentre succedono le cose, insomma, ci vogliono delle norme chiare. Sì, scusa, Roberta, sì. Mi piacerebbe che analoga attenzione, anche alzata di scudi, ci fosse nei confronti delle violenze sulle donne, di cui tu parlavi poc'anzi, certo. Perché ad esempio ci sono casi di minacce, violenze ripetute con mariti, compagni, fratelli, insomma amici vari, che vengono poi lasciati di nuovo liberi di agire, quindi si aspetta che poi scappi il morto, ma prima del morto ci sono degli avvisi, no? Delle minacce che spesso vengono sottovalutate sia dalla forza dell'ordine che dai magistrati che magari lasciano, sì, seguendo la legge, ma allora mi chiedo come interveniamo sulla legittima difesa. Non sarebbe il caso di intervenire con altrettanta forza, perché vorrei vedere quanti sono i casi di femminicidi rispetto ai casi di persone uccise dentro casa o che hanno subito violenza. Sono assolutamente d'accordo con te, Barbara Fiammeri, e ti ringrazio molto di averlo sottolineato. Grazie, grazie davvero, cara Barbara. Intanto buon fine settimana, in attesa grazie di una... a voi. Ciao, in attesa di interventi, diciamo, sia sulla legittima difesa in particolare, su questo che ricordava Barbara Fiammeri. Dice l'ascoltatore Diop da Torino che il rischio è per la legittima difesa che se si può reagire con l'arma allora i ladri arrivano già armati perché non hanno nulla da perdere. Insomma, la questione è complessa, però vediamo un po' come procede al Senato. 349-238-6666 per messaggi e WhatsApp, oppure scrivete sulla pagina Facebook di Effetto Notte. A tra poco. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte, lo sapete, siete al posto giusto, nel momento giusto, anche se volete con la giusta conduttrice Roberta Giordano con voi. Abbiamo parlato di molte cose sinora, abbiamo sentito il sindaco, a parte il riassunto della giornata, il sindaco di Pomezia per raccontarci un po' qual è la situazione dopo questo incendio di questa azienda di materiali plastici, di rifiuti plastici. Ha detto che tutto abbastanza sotto controllo rispetto all'emergenza che c'era oggi, però si attendono dalle ASL delle valutazioni sui residui, ci potrebbero essere fibre d'amianto, speriamo di no, ma insomma si avranno i risultati nelle prossime ore o nei prossimi giorni. E poi abbiamo parlato con l'avvocata di parte civile Teresa Manente nel processo con rito abbreviato a Vincenzo Paduano, l'uomo che lo scorso 29 maggio dell'anno scorso uccise, strangolò e poi diede alle fiamme la sua ex fidanzata di 22 anni, Sara Di Pietrantonio. È stato condannato all'ergastolo. E poi adesso ci siamo occupati di politica, del bilancio della politica della settimana, come sempre il venerdì a Effetto Notte, e siamo ritornati in particolare sulla legittima difesa, sul fatto che sta scontentando questo disegno di legge passato ieri alla Camera, che deve approdare al Senato, sta scontentando un po' tutti. Sicuramente c'è un po' di confusione, almeno nel lessico, quindi qualche modifica verrà certamente fatta. E poi i vostri messaggi sempre al 349-238-6666, pagina Facebook di Effetto Notte. Dice Lidia: siamo l'unico paese al mondo che ha bisogno di 3 passaggi parlamentari, a volte anche di più, per fare una legge, a volte poi fanno schifo lo stesso. Però avete sentito prima Pietro Grasso, presidente del Senato, che ha detto meno male che c'è il Senato, appunto auspicando che ci siano delle modifiche a questo disegno di legge sulla legittima difesa. E poi l'ascoltatore che dice: ma che cosa dobbiamo fare, chiedervelo sulla carta bollata per dire questa legge fa schifo, non è che lo devi dire a noi, nel senso effettivamente pare che anche l'Associazione Nazionale Magistrati abbia detto che è un po' confusa, che non introduce in realtà delle cose nuove ma semmai rende le cose ancora più contorte, e quindi vedrete che al Senato ci saranno delle modifiche, vediamo in quale direzione, se si troverà un accordo in tempi brevi. Ora invece ci occuperemo di Francia, ma se non avete acceso puntualmente alle 21 vi ricordo comunque i fatti principali. Le presidenziali francesi, di cui parleremo tra pochissimo, visto che domenica c'è il ballottaggio. Pomezia, incendio in un deposito di rifiuti, una nube nera minaccia i centri abitati, l'invito a non aprire le finestre, nessun intossicato al momento. Effetto Notte, avete sentito il sindaco della cittadina del Lazio. Sara, strangolata e bruciata, condanna all'ergastolo per l'ex fidanzato Vincenzo Paduano. La mamma della vittima dice una sentenza giusta ma non si è mai pentito, e avete sentito qui in collegamento l'avvocata di parte civile. Legittima difesa, ne abbiamo appena discusso, dalla all'Associazione Nazionale Magistrati, al PD, tanti no alla legge passata ieri alla Camera, e Grasso che dice meno male che c'è il Senato. Corea del Nord, le autorità accusano la CIA di voler uccidere Kim Jong-un e avvertono: siamo pronti a reagire. L'anziano spinto giù dagli scogli in Puglia, il 17enne fermato con un altro minorenne, ammette: sono stato io. E poi ciclismo, al Giro d'Italia, prima maglia rosa e l'austriaco Postberger. Tra due giorni, quindi, domenica 7 maggio, sapremo chi sarà presidente della Francia. Domenica, infatti, 7 maggio, c'è l'atteso ballottaggio tra il candidato centrista Emmanuel Macron e la candidata del Front National, della destra radicale, Marine Le Pen. Ormai di loro sapete più o meno tutto, abbiamo raccontato un po' tutto in questi giorni, diciamo, del profilo politico e anche personale, in particolare di Macron. Abbiamo seguito qui Effetto Note una parte del lungo duello televisivo a reti unificate che dava la Francia, le reti televisive francesi, con soprattutto attacchi reciproci piuttosto violenti, in particolare da parte di Marine Le Pen. Lui, lo sapete, ex ministro dell'economia del governo di Hollande, ex banchiere, che dice di dover tutto quello che è alla sua compagna di tanti anni, che è la sua ex professoressa, con la quale ha 24 anni di meno e sono insieme sposati da tanti anni. Lei, erede del padre Jean-Marie, fascista, leader del Front National, che poi lei ha scaricato, ucciso il padre nel senso metaforico, psicanalitico, segnando una svolta nella parabola del clan Le Pen e quindi anche del Front National, dandogli una virata più moderata. I sondaggi, Marco Moussanet, corrispondente del Sole 24 Ore dalla Francia, danno sempre in netto vantaggio comunque Macron. Oggi, fra l'altro, Marine Le Pen è stata nuovamente contestata, così come ieri con lancio di uova. Sì, buonasera a voi. Ma fortunatamente i sondaggi in realtà registrano un ulteriore aumento del distacco tra i due candidati dopo il dibattito, violentissimo dibattito televisivo mercoledì sera. Macron sarebbe ormai intorno al 62%, guadagnato circa 3 punti. Insomma, mi sembra che non ci sia più, fortunatamente, ripeto, nessuna substance sul risultato di domenica, almeno dal punto di vista del vincitore. Si tratterà di vedere quale sarà effettivamente il divario, perché Macron ha bisogno, per tutta una serie di ragioni, di una vittoria la più ampia possibile. Scusa Marco, ti avevo perso per qualche istante. Scusami. Eccomi, non so da dove devo ripartire. No, non c'è bisogno che tu riparti. In realtà mi limitavo a dire appunto che ormai i sondaggi sono chiarissimi, che non c'è nessuna suspense sul risultato di domenica. Eppure c'è ancora qualcuno, ecco, questo stavo pensando, stavo rileggendo una cosa, c'è ancora qualcuno che immagina che possa ancora vincere Marine Le Pen. Ah, ma c'è sempre qualcuno che pensa a qualcosa di bizzarro. Ma non è il caso, cioè, nel senso che è assolutamente impossibile. Beh, oddio, certo, nulla è impossibile fino a quando il risultato non è acquisito, però insomma dovrebbe accadere un cataclisma impensabile, non so, un grande attentato a questo proposito l'annullamento del rinvio del voto, infatti. Insomma, ecco, però voglio dire, a bocce ferme non c'è alcuna possibilità che la Le Pen vinca domenica. Marco, proprio a questo proposito, prima citavo questo appello, come sempre, appunto, folle dell'ISIS, riportato dal sito Site, che monitora tutto quello che avviene sul web da parte dell'integralismo islamico, che lancia l'appello ai cosiddetti lupi solitari. Io vorrei trovare un termine, diciamo, meno epico per loro, ad attaccare i due candidati domenica e anche il personale nei seggi. Sì, ma mi sembra, come dire, nell'ordine delle cose, mi sembra l'ennesimo messaggio, l'ennesimo appello folle di questi criminali, insomma, non, peraltro è stato ripreso praticamente solo dai siti italiani, insomma, nel senso che, come succede spesso, nel senso che c'è una tendenza, come dire, dei media italiani ad alimentare tutti come dire, i timori e le paure possibili. Beh, in realtà, come dire, il rischio terrorismo è un rischio ovviamente che esiste, pesa su questo voto come su tutte le situazioni delicate in tutti i paesi, la Francia in particolare, perché è particolarmente esposta sui fronti di guerra. Però insomma, mi sembra che sia un rischio appunto che non aumenta di certo perché lo Stato islamico lancia l'ennesimo appello. Per chiudere, Marco, come si contesta spesso anche a politici italiani e non solo, pare che appunto durante il duello si siano molto attaccati, ma senza che sia venuto fuori almeno i punti principali in sintesi dei loro programmi. Se tu dovessi dire proprio la peculiarità, a parte l'essere contro l'Europa o a favore dell'Europa, che sembra ciò che connota di più, no? I due candidati, Macron per l'Europa da rifondare. In realtà, purtroppo invece sono costretto a ritornare su questo tema. In realtà il voto di domenica è una sorta di referendum pro contro l'Europa. D'altronde la stessa Marine Le Pen ha dichiarato che senza che il 70% del suo programma, anche dal punto di vista delle misure economiche, dipende dall'uscita, dall'abbandono dell'euro e dal ritorno alla moneta nazionale. Quindi il suo programma crollerebbe quasi per intero qualora questa operazione non riuscisse. Quindi l'Europa rimane il grande tema di fondo delle presidenziali francesi di domenica ripeto ancora una volta, fortunatamente vincerà un europeista che, pur volendo giustamente riformare e rifondare l'Unione Europea per dargli più slancio, più vitalità, per renderla più vicina alla gente, però una logica appunto di rafforzamento, di consolidamento delle grandi conquiste che abbiamo ottenuto tutti grazie all'Unione Europea. Grazie Marco Mussani da Parigi. Ciao Marco. Buon ballottaggio allora. E poi vi ricordo, ci sarà lo speciale domenica qui a Radio 24 a partire dalle 21. E intanto vedo ancora i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte, alla quale potete aderire senza indugio in qualsiasi momento. Francesco scrive ergastolo relativamente alla condanna a Vincenzo Paduano per il femminicidio che commise contro la sua ex fidanzata di 22 anni l'anno scorso, strangolandola e bruciandola. Dice ergastolo: nonostante il giudizio abbreviato, perché la condanna prevedeva l'isolamento diurno, ottimo. Sapete che il rito abbreviato prevede lo sconto di un terzo della pena, però gli hanno levato in realtà l'isolamento diurno. Dice ottimo, speriamo che sanzioni del genere si rivelino anche esemplari, lo speriamo. Laura dice, vabbè, questo messaggio poi lo leggerò da parte Elena, e speriamo che non esista, dice, un prossimo grado di giustizia dove la sentenza possa essere modificata, però anche il rito abbreviato lo prevede, Elena. Vedremo che cosa succederà, insomma ci auguriamo che venga riconfermato, visto proprio l'efferatezza di questo delitto. A questo punto Marco scrive invece sulla legittima difesa. Grasso, meno male che dice che c'è il Senato, ha detto meno male che c'è il Senato, proprio delle possibili modifiche alla legittima difesa, dice: ma questi non erano coloro che volevano abolirlo, manica di incompetenti? No, Grasso non voleva abolirlo, e mi pare che sia stato anche abbastanza chiaro. Ci sentiamo tra pochissimo. Faircam Transport, puntuale ed efficiente nel rispetto dell'ambiente. Scopri di più su faircam.com. Vi presenta Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E eccoci insieme, quante notizie anche questa sera, cari ascoltatrici, cari ascoltatori. Abbiamo ancora meno di una decina di minuti. Roberta Giordano sempre con voi, pagina Facebook di Effetto Notte, anche quella è sempre con voi, oppure per i messaggi WhatsApp anche il 349-238-6666. Ma adesso vi ricordo molto velocemente che le notizie principali di cui anche abbiamo parlato sono l'incendio al deposito di plastica a Pomezia, con questa nube tossica che si è elevata in aria, e con il sindaco e anche la sindaca Raggi, il sindaco di Pomezia, che avevamo avuto qui a Effetto Notte, ha chiesto di chiudere le finestre, di lavare bene gli ortaggi, di non uscire se non è necessario, e ci potrebbe essere il rischio amianto sulle coperture dei capannoni che sono andate a fuoco, però l'ASL sta facendo le verifiche. Poi abbiamo appena parlato delle presidenziali francesi, domenica il ballottaggio tra Macron e Le Pen, i sondaggi danno in netto vantaggio Macron, e poi uccise e bruciò l'ex fidanzata di 22 anni lo scorso maggio, strangolandola e poi bruciandola, condannato all'ergastolo Vincenzo Paduano. Ne abbiamo parlato con l'avvocata di parte civile. Poi sulla legittima difesa, dall'ANM al PD, tanti no alla legge. Grasso dice: meno male che c'è il Senato, perché adesso passerà al vaglio del Senato. E poi per lo sport, follia ultra con i manichini romanisti impiccati al Colosseo. Ne parliamo adesso con Giovanni Capuano. Caro Giovanni, buonasera. Eccomi Roberta, però se vuoi iniziamo con una buona notizia. Sì, prego. La buona notizia è che la Federcalcio ha cancellato la squalifica di Sulley Montai, che sì, come ricorderai era il protagonista di quella vicenda un po' particolare, surreale di domenica. Lui era stato prima ammonito, poi aveva abbandonato il campo, era stato espulso in Cagliari-Pescara perché aveva anche con vigoria eccessiva denunciato di aver sentito alcuni insulti, alcuni ululati razzisti. Montari, sì, per chi non lo conosce, è un giocatore ghanese ed è un giocatore di colore. Era scattata automatica anche la squalifica, ma questo lo prevedeva il codice di giustizia sportiva, quindi c'era poco da fare, ma era evidentemente una situazione che, oltre a essere finita sui giornali di tutto il mondo, esponeva il calcio italiano a una bruttissima figura. Oggi, questa sera, proprio pochi minuti fa, è arrivato il responso della Corte Federale d'Appello che ha cancellato la giornata di squalifica, ha risentito l'arbitro di quella partita, sono state considerate un po' tutte le situazioni, anche quelle attenuanti che nell'automatismo del primo grado non erano state analizzate, e dunque Montari sarà disponibile per la partita di domenica. Bene, invece sul fronte negativo, questa ulteriore scempio demenzialità, in questo caso degli ultralaziali, che hanno ammesso di aver appeso loro i manichini rappresentanti i calciatori romanisti vicino al Colosseo, e poi hanno detto ma è stato un sano sfottò, insomma diciamo che hanno veramente un punto di vista particolare, no, su quelli che sono gli sfottò e gli scherzi. Sì, e questo è un po' il codice di tutte le curve che la maggior parte delle persone fatica codice a comprendere, ecco, in maniera evidentemente razionale. Diciamo che questo tipo di spiegazione, ovviamente non giustificabile, cancella l'altro timore, quello per qualche ora c'è stato questa mattina. Quando ci siamo svegliati con quell'immagine, il timore era che fosse invece un gesto di fortissima intimidazione da parte dei tifosi. Chiunque di noi lo Roma leggerebbe in quel senso, esatto, no? Se fosse appeso un manichino propri, con la mia effigie o la tua. E questo sarebbe stato davvero gravissimo. Ciò a cui insomma alla fine abbiamo assistito è purtroppo la conferma che nel mondo del calcio, soprattutto da parte di determinate parti del mondo del calcio, non esiste il senso della misura, non c'è la comprensione delle. Non esiste sensibilità e civiltà e anche intelligenza, direi, anche sulla questione del Gran Torino. No? Giovanni, invece, per andare in questo minuto che ci rimane al ciclismo, centesima edizione del Giro d'Italia, oggi è partito dal Ghero in Sardegna. Sì, è partito ed è stata una grande festa, la prima tappa l'ha vinta un austriaco, Lukas Postelberger, che ha beffato tutti con uno scatto a un chilometro dalla fine. È stata una grande festa, come sempre, strade piene, poi il Giro in Sardegna era attesissimo, anche se manca Aru, che è l'idolo di casa, ma che a causa di un infortunio di un paio di settimane fa non può partecipare. È partito anche questo con la cattiva notizia del doping, che è qualcosa che oramai colpisce in maniera molto profonda il gruppo e chi segue il ciclismo. I due nomi insomma sono quelli che avete letto, Nicola Ruffoni, c'è Pirozzi. Un'oretta fa Nicola Ruffoni ha postato su Facebook un'autodifesa dicendo che è innocente ed è positivo per aver preso dei medicinali per la prostata. A me piace più ricordare le parole del suo DS, che tra poco sarà probabilmente il suo ex DS, perché i due ciclisti quasi certamente saranno licenziati. Bruno Averbri si chiama, che ieri in uno sfogo davanti ai giornalisti ha detto: io non ne posso più, tanto tutti dicono sempre di non centrare nulla, ma io di ascoltare queste palle sono stanco, e quindi che tornino a casa e vadano a cercare sul lavoro. Chiaro. Ovviamente c'è il secondo grado del controanalisi, quindi noi dobbiamo essere garantiti fino in fondo, però questo è il ciclismo oggi. Grazie Giovanni Capuano. Ciao Giovanni, buon fine settimana. Ora non so se mi devo riferire, se devo chiederlo a Paolo Corazzone di Trebi Meteo, oppure mi devo rivolgere a chi l'ha vista, Paolo? Chi l'ha vista la primavera? Bravo, hai intuito subito. Certo. Buonasera Roberto, intanto che piacere ritrovarti. Beh, reciproco. In effetti c'è da avere un po' di pazienza, quello sì, lo ammetto, però in realtà la primavera è questa, e anzi avevamo un gran bisogno di acqua, quindi ben vengano queste precipitazioni, so che non mi sopporti quando dico così. Comunque, fatto sta che domani ne arriva un'altra di perturbazione, quindi prepariamoci per il nord Italia e anche la Toscana e le Marche. Domani arrivano nuove piogge, quindi già dalla mattinata al nord-ovest, ma in giornata ce n'è per tutti, meglio nel resto del centro-sud, e anzi pensa che domani in Sicilia toccheremo i 30 gradi, nelle regioni meridionali fa pure caldo. Domenica si invertono le cose, al nord migliora, avremo una giornata quantomeno senza piogge, al nord invece un po' più di nuvole al centro-sud, specie regioni peninsulari, però piogge non tante, magari il medio e basso Adriatico rischia qualche acquazzone di passaggio. Fatto sta che, guarda, settimana prossima avremo comunque ancora un po' di variabilità e temperature non altissime al centro-nord, ma piano piano arriva la primavera, quella che piace a te, te lo garantisco. Vabbè, per il momento non sono molto soddisfatta, ma pazienza, buon tempo a te Paolo Corazzon. Ciao Paolo. Grazie, buon tempo a tutti. Ci riaggiorniamo brevemente alle 22.